Sassari, il necroloquio per voi. Madame et messieurs, tombez sur les chambres des pompiers, où nous trouvons de la bombière. Madame et messieurs. Oui, nous la voyons. Nous avons l'honneur d'entendre les mots de l'Ocuio. La Sassari dans la province de Sassari, la mort qui parle. Ok, non dirmi what you say. Ho dato il corpo e l'anima al funk tipo Nate. Vuoi informazioni circa me gli amici miei? Fuori in strada adrenalina e protesta tipo Cortei. No, non mi tocca di chi parla male a ruota. Marcia male in questa vita, vede l'esca e luce a bocca. No, non mi importa, viene la tua cricca cotta. Tu e il tuo bling bling fuori dei coglioni. Io affondo la tua flotta. Vivere, crepare, produrre, comprare a Sassari. Fatti un'iniezione ma che sia letale. Oppure aspira smog, resti sotto shock. Pensa sempre al tuo però, ascolta solo e crepate in un tot. Non mi interessa un cazzo del partito, le tue parole, cazzo dici ma ti sei ammattito. Non dirmi puttanate, se parlate bestemmiate voi con le vostre stronzate. Ma dove cazzo andate? Sto con i pirati, voi no, defilati. Noi no, non abbiamo schemi già prefigurati. Lo so, non ci strati dalla base, non abbatti le mie case. Siamo tanti in caso, non lo ricordavi. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. La gente che si arrende e manco ci prova. Succube di tutto che aspetta giusto l'ora di andare all'aldilà o di vivere in malora. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia, la gente che si arrende e manco ci prova. Succube di tutto che aspetta giusto l'ora di andare all'aldilà o di vivere in malora. Sta caro alla spina, ra, catalante prima, scendi prima linea, cazzo ci fa in cima, Sassari assassina, peggio di una bomba, un'overdose d'eroina. Povera meschina. Benvenuti nello studio del sicario. Spazio per le chiacchiere, il mutuo e il precariato. Spazio per i trans, troppi fans comunisti. Alle parole ma nei fatti chi ci sta? Stronzo fatto in là. Loro dicono negativo, è vero. Non penso, non lo vedo e non lo vivo il positivo. Sai che cazzo dico? Potessi avere tutti sotto tiro, farvi male come un chimico mortale. Squadro snob, sì lo so. Pregiudizi io ne ho troppi e me ne sbatto dei tuoi pro. Fascista sì però, chi cazzo ti si caga con i tuoi ideali? Penso al mio e boh, cazzo non chiamarmi bro. Fratelli non ne ho, solo gente fidata. La vista appannata, questa Sassari bruciata. La vita disfatta, troppi visti per la strada. E la gente fidata risulta gente contata. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. La gente che si arrende e manco ci prova. Succube di tutto che aspetta giusto l'ora di andare all'aldilà o di vivere in malora. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. La gente che si arrende e manco ci prova. Succube di tutto che aspetta giusto l'ora di andare all'aldilà o di vivere in malora. I folli muoiono in bocca alla pazzia. Sassari la mia, vita e malattia. Sassari carogna, Sassari la spia. Sassari che prende ciò che vuole in ogni via. Sassari distorta, di rotta ogni flotta. Di spone d'ogni cosa, di pure una parola. Da sembra fatto scuola per metterti in malora. Sassari ti uccide lentamente, si fa sorda. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. La gente che si arrende e manco ci prova. Succube di tutto che aspetta giusto l'ora di andare all'aldilà o di vivere in malora. Dove cazzo viviamo? Sassari l'angoscia. La gente che si arrende e manco ci prova. Succube di tutto che aspetta giusto l'ora di andare all'aldilà o di vivere in malora. Oui, c'est l'amour. Remove l'étoile et tout cela sera toi. Oui. C'est une merde. C'est une grosse merde. Grand. Pas d'avis, grosse merde. C'est une grosse merde. Merde.